America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ci impegniamo a meritare la fiducia come governo perché pensiamo che l'Italia abbia la necessità urgente, indifferibile, di recuperare la fiducia come condizione per uscire dalla situazione di crisi in cui ci troviamo. Un paese arrugginito, un paese impantanato, incatenato da una burocrazia asfissiante. Beh, Renzi che parla ieri col suo discorso programmatico, un discorso che è stato, come dire, molto studiato qui negli Stati Uniti. Quando il Presidente del Consiglio dice che l'Italia è arrugginita, che c'è troppa burocrazia, che siamo soffocati, che dobbiamo guardare in avanti, che dobbiamo essere più flessibili e così via, beh, tocca delle tematiche che a Washington, nella capitale politica, e a New York, a Wall Street, nella capitale finanziaria, sono considerate molto importanti. C'è anche una certa prudenza. Come si dice, Renzi è relatively unknown, è alquanto sconosciuto, e quindi al di là delle parole poi si dovrà vedere quanto la concretezza dei risultati farà da contrappunto alle sue promesse e alle sue idee. E su questo che sono concentrati i mercati. C'è tuttavia molto interesse, c'è ottimismo. Il New York Times ha dedicato questa mattina un lungo articolo al discorso di Renzi, e quindi questo unknown character, questo personaggio che non è molto conosciuto, comincia ad essere conosciuto molto meglio. Ecco, detto questo, ci sono molti punti interessanti che debbono essere esplorati e che intervengono a determinare la relazione fra Italia, Stati Uniti, fra Barack Obama e Matteo Renzi. E per cercare di capire meglio come l'America politica si sta posizionando sui primi passi di Renzi, ho fatto una chiacchierata con Charles Kuchman, che è il grande esperto europeo del Council on Foreign Relations, anche grande esperto di Italia. Buongiorno Charlie, parto subito con una domanda. Qual è la valutazione generale? I would say cautious optimism. Ecco, avete sentito come Kuchman è relativamente prudente. Dice, cauto ottimismo perché da una parte dice Renzi è in grado di raccogliere e allo stesso tempo rispondere al grande malumore, alla grande scontentezza che c'è nel paese, andando ad attaccare proprio quelli che sono i punti più difficili, le rigidità che in qualche modo soffocano l'Italia. Allo stesso tempo critica molto il vecchio sistema politico arrugginito, un sistema politico che si è rinchiuso in trincea, che cerca di resistere, e risponde con delle nomine di persone nuove, con dei giovani, con un cambiamento forte. Ecco, a fronte di questo, dice Kuchman, la cosa interessante è che lui allo stesso tempo riesce a lavorare con l'establishment. Quindi da una parte attacca l'establishment e lo supera con nomine di persone giovani, dall'altra ha trovato il modo per lavorare con l'establishment. Questo può essere un punto di contatto interessante che potrebbe garantire al suo governo una navigazione più stabile di quella che ha avuto, per esempio, il governo Letta. Ecco, poi chiedo a Kuchman quali possono essere le debolezze di Renzi dal punto di vista americano. I would say I have three main concerns. Ecco, ci sono tre punti, dice Kuchman. Il primo, uno come Renzi è molto diverso da un tecnocrate, come poteva essere Letta, perché Letta forse era più tecnocrate che politico, era molto tranquillo, riusciva a suo modo a trovare dei punti di compromesso. Un rischio per Renzi è quello di essere troppo di rottura, di andare a creare delle situazioni difficili che potrebbero danneggiare il suo governo. Dunque quel suo modo di navigare, da una parte puntando sul cambiamento, dall'altra cercando di lavorare con l'establishment, diventerà l'equilibrio chiave. Secondo punto, il compito di Renzi è difficile, perché l'analisi di Kuchman è che, a differenza di Blair e di Clinton, che erano arrivati al potere con una gran parte del lavoro già fatto, nel caso di Clinton il lavoro lo aveva fatto Reagan, nel caso di Blair lo aveva fatto la Thatcher dal punto di vista dell'ammorbidimento dei sindacati, della deregolamentazione e così via, questo in Italia non è successo, e dunque Renzi si trova a dover modernizzare le strutture interne del paese partendo da una posizione più arretrata rispetto alle sue controparti progressiste come per esempio Blair e Clinton. Questo può essere un problema perché la sua base potrebbe non essere necessariamente preparata. Infine, l'ultimo punto è l'esperienza. Il problema, secondo Kuchman, è che uno come Renzi, più istintivo, più portato portato al confronto diretto, più portato a essere l'uomo politico piuttosto che l'uomo che si dedica alla policy, quindi allo studio dettagliato dei tagli, delle tematiche, potrebbe trovarsi in difficoltà nel momento in cui gran parte delle sfide hanno delle componenti tecniche molto molto complesse. Dunque dovrà imparare Renzi a studiare a fondo i dossier, ad essere preparato sul dettaglio e non soltanto sulla retorica. Where do you think that the chemistry may work or not work between the two and what? Ecco, chiudo Renzi la chiacchierata con Cushman chiedendogli come sarà secondo lui la chimica, la relazione fra Obama e Renzi, visto che Obama si trovava molto bene con Monti, poi si è trovato molto bene con Letta, si trova molto bene con Napolitano e sono tutti e tre personaggi molto simili a Obama da un punto di vista, diciamo, di carattere, di personalità, mentre invece Renzi è più impulsivo, qualcuno dice che è più simile a Berlusconi, è un grande comunicatore. Ecco, cosa risponde Charlie? Well, you know, the relationship between Washington and Rome has been. Ecco, Charlie Cushman conferma, sì, la relazione era molto molto ravvicinata fra Monti e Obama, anche poi con Letta, soprattutto col presidente Napolitano, una relazione sicuramente altrettanto vicina a quella che potrebbe esserci con qualunque altro paese alleato. Con Renzi, dice Cushman, è diverso, è un tipo di politico più istintivo, più impulsivo. E dunque in effetti il carattere dei due è diverso e sappiamo quanto Obama può essere sulle sue, però c'è un punto che per Obama è chiarissimo quanto importante sia l'alleato italiano, se ne è reso conto negli ultimi anni, e per Obama è chiarissimo quanto importante sia Renzi, perché se davvero fa le riforme che vuole fare, se davvero porta l'Italia lungo la linea della crescita, se davvero diventa una contrapposizione alla forte austerità voluta dalla Germania, significa muoversi lungo la linea americana e dunque a quel punto il fatto che siano sulla stessa lunghezza d'onda come personalità o carattere diventa secondario, l'importante è il risultato, l'importante sarà essere sulla stessa linea politica, cosa che in qualche modo sembra emergere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Louis Armstrong, il grandissimo musicista americano, non ha mai avuto figli. Ebbene, ieri una notizia. Sharon Preston Folt ha pubblicato un libro e dice di essere lei la figlia di Louis Armstrong, l'unica figlia. Il padre aveva una relazione con sua madre negli anni 50, quando era sposato, è stato uno scambio di corrispondenza, insomma lei è sicurissima di essere la figlia e dunque chissà, forse anche l'erede di Armstrong. E visto che abbiamo parlato di politica, di questo tentativo di avere un mondo migliore anche in Italia, di Louis Armstrong, What a Wonderful World. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.